it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. Go back. God, what is that there? That's Roger, hollow. What the hell is that? Go tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Who's communication? Bravo tango. Bravo tango. Non ci sono maestri, solo attenti ascoltatori. E allora buonasera, attenti ascoltatori da qualunque galassia ci stiate ascoltando. Questa è Lezioni Universali di Esistenza in onda su Radio... Sì, maestro. E non ha quasi nulla di una lezione, ma ha tutta l'aria di essere universale. Per non parlare poi dell'esistenzialismo. Non ne parleremo. Non ora. E quindi di nuovo buonasera, esseri all'ascolto. Queste Lezioni Universali di Esistenza in onda un mercoledì ogni due dalle 21 in poi su Radio Wombat. Per quanto poi la sera sia una condizione, come dire, non sperimentabile dai più tra di voi. Io ho qualche dubbio anche sul mercoledì, se posso dirla tutta. E sono ben fondati i tuoi dubbi. Tutto questo fortifica le mie convinzioni, caro maestro, spero che ne avrò ancora di fortificate nel corso di questa puntata, che è ricca di un sacco di momenti importanti, a cominciare da quello che proveremo a fare adesso, ovvero sono pronto a fortificare le tue fortificazioni tanto quanto ad abbatterle. Allora, eccomi qui. Grazie maestro. Allora, nella scorsa puntata noi avevamo provato a fare l'anagrammista Ciripeo, che è il nostro... L'ex Papa. Bravo, esatto, certo. Giulio Ciripeo VII è l'anagrammista, il nostro personaggio che ci accompagnerà nel corso di queste puntate. Abbiamo una sigla pronta, la prossima volta la faremo fatta bene con anche la voce. Per questa volta però, siccome la scorsa non siamo riusciti a farvi sentire niente, abbiamo pensato di riuscire ad arrivarci gradualmente. Beh, comunque è un ex Papa, c'ha i suoi impegni, dovete considerare sì, anche sì, questo. E giustificarlo per questo. Già il fatto che interloquisca con noi e ci dispensi sì, delle massime, delle minime e degli anagrammi comunque, tutto sommato. E allora adesso proviamo a sentire la sigla dell'anagrammista Ciripeo a recuperare i due anagrammi perduti dalla scorsa puntata e poi canzone. Andiamo con quella di questa qua e non vi diciamo niente sulla rubrica finale del maestro di questa, perché sarà un momento molto punk. No, aspetta, i microfoni mi era finita, era tutta qua. È la sigla più lunga che io abbia mai sentito, incredibile. Però te la devi immaginare con la voce che arriverà dalla prossima puntata, perché farebbe tipo così: l'anagrammista Ciripeo. Aspetta, ti faccio sentire di nuovo. Ma aspetta. Vogliamo soffermarci sulla qualità del tuono vocale del nostro disc jockey, allora, qui presente? Non sarò io la voce che canterà la sigla ufficiale. Comunque della prossima... suavissima. Grazie maestro, sì. Grazie, sempre squisito. L'anagrammista Ciripeo. Non so se hai capito. Capito, sì. Hai reso totalmente l'idea. Perfetto, la sentiremo live nella prossima puntata, perché inizieremo con gli ospiti, vero? Dalla prossima, certo, puntata. E voglio dire, la sentiremo live nel senso che uno di questi ospiti sarà un cantante? Sì, succederà esattamente questo. Incredibile. Incredibile. Ecco qui come avete visto in tempo reale i miei poteri di predizione. Divinatori. Divinatori. Più allora, vino che di. Avevamo detto di Gustavo Adolfo Roll, il cui anagramma è Rollo, fava, da gusto. Questo è bello, molto bello, l'avevamo già accennata la scorsa volta, forse sbagliando una vocale, ma tuttavia parlando del sistema copernicano fallace, questo faceva fede la puntata, certo, appunto, sul Gustavo Adolfo Roll, e quindi parlando di Niccolò Copernico, potremmo dire con l'anagrammista che Niccolò Copernico è anagrammabile in copro ciel con noci, mio caro maestro, copro ciel con noci. Ah. Copro ciel con noci. Copro il cielo con le noci. Copro ciel con noci. Sì, bello, bello, bello, bello, bello. Io ti dico a caso questo. È un roditore che l'ha scritto questo. Copro ciel, sì, no, è l'anagrammista, l'abbiamo detto, Giulio. Così, l'anagrammista, che in questo caso impersonificava uno scoiattolo. Però. Lo sai che l'anagramma di Del Piero è repelido? Così, a cazzo. Ma la cosa più assurda è che fa più ridere di gli altri. Va bene, avremo ancora un anagramma, ma lo sentiremo dopo. Oddio, allora, inventiamo parole per sempre. Sentiamo una canzone molto breve, perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Canzoncina breve, friccicante e via. Signori e signori, erano i Divo Space Junk. È subito, maestro, l'anagrammista, maestro. Allora, Gemo, vetri d'alieni in corpo. Devo scoprire di cos'è l'anagramma? Sì, sì, esatto. Gemo. Vetri d'alieni in corpo. Anche voi, cari ascoltatori, come erano? Astronave aliena. Molto bello, no? È molto più terrestre il primo argomento. Siamo molto più sulla Terra, siamo a Oriente. Gemo alieni di navi in corpo. Vetri d'alieni in corpo. Vetri d'alieni in corpo. È difficile. Sono, te lo dico subito, sono le pietre di cervo in Mongolia. È l'anagramma di pietre di cervo in Mongolia. Molto bello, molto bello. Grazie all'anagrammista, grazie davvero. Pietre di cervo in Mongolia. C'ero quasi. Un mistero irrisolto da millenni. Stiamo parlando di petroglifi. Allora, prima di tutto ti faccio vedere le fotografie, maestro. Le potete anche cercare voi da casa. Guarda. Sono queste. Prima di qualunque cosa, cosa ne dici delle pietre di cervo? Allora, la prima cosa che dico è che sicuramente appartengono, sono l'espressione di una cultura megalitica. Molto bene, perché in effetti sono praticamente dei megaliti di varia dimensione e forma piantati nella terra. Vengono chiamati infatti pietre di cervo, ma perché questo ricercatore russo nell'Ottocento, un archeologo, le ha scoperte, le ha battezzate così, era Vasily Vasilevich Radlov. Pubblicò questo articolo che infatti li chiamò, in cui li chiamò misteriosi monoliti. Ma su questi monoliti mi sembra di capire che siano incisi una sorta di bassorilievi. Sì, è questa la cosa sorprendente, perché sono state ritrovate nei pressi molte ossa, però non sono ossa umane, bensì sono ossa di animali, e sulla gran parte di questi sono incise delle figure di animali. Per esempio quella che ti sto mostrando adesso rappresenta dei cervi, vedi, con le corna, molto bella. Sì, in realtà no, però va bene. Come? No. Sì, è un cervo, di Ahan. No. Cos'è? È un dio. Sono dell'età del bronzo, dice. È il dio che sta su una gamba sola, quello. Questo è il dio che sta su una gamba sola? Sì. Comunque le potete trovare da sole. Questa è molto grande, molto bella. Si vede questo cervo che secondo il maestro è il dio che sta sulla gamba sola, invece. C'è chi dice che andrebbero a commemorare l'identità dei defunti, però è molto incerto questa cosa, perché in realtà appunto intanto sono tante, molto diverse fra loro per dimensione e forma. Vedi questa qua che ti sto mostrando adesso, per esempio, ha un volto umanoide, ci sono dei... Antropomorfo. Varie forme, molte sono di animali, le ossa ritrovate nei pressi sono tutte ossa di animali e non ci sono ossa... In quanto quel tipo di ossa... di animali o di antenati che siano, probabilmente ha una funzione all'interno del controllo del mana. Scusa? Del mana. Precisa, per favore. Energia. Da cui... Aspetta, stiamo per svelare il mistero delle pietre di cervo in Mongolia, ascoltate bene. Non starò qui a soffermarmi sulla funzione del mana e su che cos'è il mana, di questo sicuramente ne parleremo in altre puntate. Quello che voglio dire qui è che società megalitiche come questa, che hanno dato espressioni di questo tipo, sicuramente conoscevano quello che gli studiosi più esperti definiscono come il canto delle pietre. Bellissimo, maestro. Io rimarrei su questa suggestione senza approfondire, perché lo faremo in prossime puntate, ma sei già stato molto chiaro. Assolutamente. Con le tue parole. Ti voglio dare soltanto l'ultimo dettaglio sulle pietre di cervo mongole, ovvero che sono tutte incredibilmente non dritte, bensì inclinate verso est. Cosa ci dice questo? È assurdo, è sorprendente. Tutte inclinate verso est. Sono tutte inclinate verso est. Forse il vento le ha spostate. No. Perché in questo tipo di simbologia l'est ha una funzione equivalente a quella di un colore o di una sensazione, di una stagione. C'è questo tipo di corrispondenza qui. Certo. E quindi il rituale, evidentemente, che coinvolgeva questo tipo di glifi e di megaliti, aveva a che fare con un qualcosa che succede ad est, e quindi, per quella che è la mia scarna conoscenza all'interno di questo tipo di simbologia, stiamo parlando di un qualcosa che ha a che fare con il fuoco e con la primavera. Quindi potremmo anche dire un'idea di rinascita, se volessimo. Un rituale primaverile. Quello che... Se fosse associato a una commemorazione dei defunti, si spiegherebbe una forma di circolarità dell'esistenza. Un qualcosa del genere, sì, quello che Stravinsky prova a dipingere attraverso l'orchestra nel suo Rite of the Spring, che è comunemente noto in Italia come il Rite of the Spring. Esattamente. Straordinario. Era una bellissima suggestione, ascoltiamola tutte insieme. È la sagra della primavera, ragazzi. L'abbiamo tradotto male. Suona proprio male. Sì, sì, sì, sì, hai fatto bene a mantenere il titolo originale. Vabbè, come si fa nei migliori film. No, perché sarebbe la traduzione corretta, sarebbe qualcosa tipo il rituale di primavera, ecco, sarebbe più corretto. Però l'abbiamo tradotto nell'Ottocento come la sagra della primavera. Come la sagra. Eravamo nell'Ottocento. Cinghiali. Ranocchi. Grazie, grazie caro maestro per averci risolto il problema delle pietre di cervo in Mongolia, quindi molto bene. Secondo punto per oggi, sei pronto? O vogliamo fare una pausa? Prontissimo. Sì, sì, allora, il secondo punto è collegato alla prima puntata. Ti ricordi avevamo parlato nella scorsa stagione, puntata del treno scomparso, che ha viaggiato indietro nel tempo per 400 anni, che è scomparso nel nord-est dell'Italia nel 1911, riapparso in Messico, in Ucraina, eccetera. Ho qualche vago ricordo personale della vicenda. Bellissima vicenda, peraltro. Grazie maestro anche per averli condivisi con noi nella scorsa puntata tutti i tuoi ricordi personali. In questa invece, dopo il treno scomparso e riapparso, no? Nel nulla, ti vorrei parlare della nave scomparsa e riapparsa nel nulla. È successo durante... Sì. E già abbiamo più simpatia per le navi, perché non dettate dalla tirannia di una rotaia. Sei bravissimo. Altre tirannie, tuttavia, leggiavano sul mondo nell'estate del 1943, allorquando questa storia si svolge. Era infatti nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale che una corazzata americana testò una tecnologia progettata dallo stesso nome che tu facesti a proposito della scomparsa del treno e delle coordinate spazio-temporali inscindibili, di cui ci hai già parlato nella scorsa puntata, ovvero Albert Einstein. Secondo infatti molte testimonianze, questa nave è riuscita a sparire, diventare invisibile, teletrasportarsi. Tutto questo è passato alla storia come il Philadelphia Experiment, o come si pronuncia, io non lo so. Il Philadelphia Experiment. Experiment, certo. In Great Britain. La nave che viaggiava nel tempo, la chiameremo invece noi, che è anche più suggestivo certe volte tradurre. Meglio tradurre che tradire. Project Rainbow, maestro, faceva così il nome del programma della Marina degli Stati Uniti americani, che aveva provato a sviluppare un campo elettromagnetico con il quale tentare applicazioni pratiche in campo guerresco. Questo qua era stato proposto proprio dallo stesso Einstein all'interno della sua teoria del campo unificato. Molti tecnici lavorarono alla fregata, come si dice, insomma, alla nave USS Eldridge. Una corazzata lunga ben 93 metri, dotata di complessissimi dispositivi elettronici, cavi elettrici, tutto attorno allo scafo. E il 22 luglio del 1943, salpata che fu, ebbe luogo il presunto esperimento. I generatori che erano stati montati a bordo di questa corazzata, infatti, attivarono un campo elettromagnetico che fece sparire la corazzata alla vista per alcuni minuti, avvolta da una nebbia verdastra. Alcuni marinai poi si sono lamentati di forti nausee provate durante il test. La nave però non è riapparsa pochi minuti dopo. Quando è riapparsa? Il 28 ottobre. No, non è vero, ho sbagliato. È riapparsa pochi minuti dopo. Bene, stavano tutti bene, ma i marinai stavano... Il 28 ottobre hanno fatto un secondo esperimento. Questa nave invece, la nave è scomparsa completamente. È riapparsa poi a 600 km di distanza e, attenzione, 15 minuti nel passato. Nel passato è riapparsa precisamente alla base navale di Norfolk. È stata proprio avvistata comparire 15 minuti prima della presunta sparizione avvenuta. Mi segui? Ha viaggiato indietro nel tempo. Questo sembrerebbe. E nello spazio. Nello spazio perché chiaramente. È scomparsa 600 km e riapparsa 600 km di distanza. Secondo quanto si racconta, le conseguenze di questo esperimento, questo secondo esperimento, furono così devastanti. Nel primo abbiamo detto della nausea, nel secondo invece furono così devastanti per l'equipaggio che la Marina Militare decise completamente di abbandonare il progetto. Infatti la maggior parte dei marinai che vi aveva preso parte aveva sviluppato la schizofrenia, molti dice che persero completamente la testa e moltissimi morirono orribilmente durante proprio l'esperimento. Alcuni furono fusi con lo scafo della nave, altri invece dilaniati o bruciati, alcuni scomparvero pochi giorni dopo che la nave riapparve e non comparirono più e non ricomparvero più. E niente, la Marina ha sempre negato l'esistenza del Philadelphia Experiment. Tuttavia, e qua si conclude la nostra storia, la moglie di una delle vittime, di un uomo della Marina Militare, tale Meredith Allen, scrisse di questa storia, di quello che il marito le raccontò quando tornò prima di impazzire completamente poco dopo, a un giornalista, scrittore, ufologo americano, Morris Jessup, che scrisse un libro. Il libro è The Case for the UFO, come si dice. Caso volle che questo scrittore, 4 anni dopo aver pubblicato questo libro, quando stava dentro al quale aveva incluso la storia dettagli dalla Meredith Allen, mentre stava lavorando a un lavoro specifico proprio su questa vicenda, morì suicida 4 anni dopo, senza averlo mai portato a compimento. E così si conclude questa vicenda. Volontà di insabbiare, mi sembra. Ti sembra tutto chiaro e cristallino, sì, maestro? Sì, una grande volontà di insabbiare questo tipo di sperimentazioni fatte a livello militare, che evidentemente la stessa Marina ha valutato come dire, dei vicoli ciechi. Ma perché dei vicoli ciechi? Perché praticamente impraticabili. Beh, però se effettivamente quella nave, come si dice, fosse riuscita davvero a scomparire, riapparire... Questo io non lo metto in dubbio. Beh, sarebbe qualche cosa su cui forse qualche vita umana si può rischiare di spendere, nella logica degli Stati Uniti d'America durante la Seconda Guerra Mondiale. In quel caso sì, ma dobbiamo anche andare a vedere quelle che sono le conseguenze, come dire, sul piano umano, se vuoi, da un certo punto di vista. E non che gli Stati Uniti si preoccupino di questa cosa, ma è una cosa francamente ingestibile, no? Se c'è una persona che ha partecipato a un esperimento del genere e dopo 2 giorni sparisce mentre sta camminando per strada, magari ci sono dei testimoni che vedono questa cosa. Però, e cosa mi dici dello spostamento temporale oltre che spaziale? Io penso che hanno utilizzato una tecnologia, quella che gli aveva suggerito Einstein, che comunque avevano fatto su quella base lì, che di cui non avevano assolutamente, cioè, nessun tipo di un po' come, cioè, non sapevano bene, secondo me, cosa stavano facendo, a cosa stavano andando incontro. Non ne avevano una grande idea, mi sembra. Oppure, caro maestro, potremmo invece pensare che in realtà la Marina Americana sia andata segretamente avanti negli esperimenti, che possegga effettivamente la possibilità di trasportare navi ed esseri nello spazio e del tempo, quantomeno oggetti, anche se forse il corpo umano non è in grado di sopportare questo. Questo, io su questo posso convenire sicuramente. E magari, certo, forse anche una grande montatura il fatto che questo, come si chiamava, questo progetto, insomma, sia stato abbandonato. Sì, anche perché loro dicevano che lo facevano attraverso un campo, no? Che sì, era generato... La teoria del campo unificato, sviluppata da Einstein, generato da una serie di generatori e di cavi che contornavano... Che contornavano la nave. Lo scafo, esattamente, ecco. Sì, per intero. Ok. Cioè, se visto anche da un punto di vista proprio di retroingegneria, se vogliamo, che sì, quelle che sono le tecnologie più sofisticate che arrivano dal di fuori del pianeta sfruttano un altro tipo di processo fisico, quindi mi viene da pensare che sì, probabilmente questa è un, come dire, un ramo della scienza e dell'energia che va esplorato, ma forse non nel senso di trasporto, quanto forse più nel senso di apporto di energia. Molto bene, molto bene, molto bene. Quindi anche sul Philadelphia Experiment abbiamo detto. E E allora io direi canzoncina, molto carina, e poi ci ritroviamo per il terzo e ultimo articolo su cui coinvolgerti. E una domanda, sì, sì. Perché Filadelfia? Perché sì, forse perché è salpata da Filadelfia. Ah, è salpata da Filadelfia. Ma così, vabbè, a caso, okay, ma non so nemmeno se c'è il porto io a Filadelfia. Forse no. Vai a sapere dove è Filadelfia, non so nemmeno dove è Filadelfia. Nel frigorifero. Sto controllando. No, non c'è scritto nelle nostre autorevoli fonti. Ti renderemo conto dopo la musichetta. E poi, quindi, ancora un altro argomento per te, caro maestro. E poi vedremo. Carichi. To earth one day, looked to left and right of it, couldn't stand the sight of it, and said, "Let's fly away." They took a look at a Western movie. Somebody heard them say, "If a horse can be a star, think how dumb the people are. We'd better fly away." Then they shook their little green antennas, scratched their purple hair, said this planet is an awful menace, let's go back to where we came from. Two little men in a flying saucer just didn't care to stay. Oh, no. Said it's too peculiar here, headed for the stratosphere, and quickly flew away. Now they took a look in Ebbets Field in Brooklyn when the Dodgers played a baseball game. Hey! Heard all the screaming, said we must be dreaming, 'cause this planet is insane. During their mission, heard a politician making speeches as they traveled by. Gabble, gabble, gabble. But they departed faster than they started, 'cause the hot air blew them sky high. Two little men in a flying saucer flew down to earth one day. Listened to a radio, saw a television show, and said, "Let's fly away." They got their fill of commercial jingles, and they were heard to say, "All the people seem to be living in a nursery. Fly away." Traveled all around, and once they'd seen us, said, "Let's head for space. We were better off on Mars and..." What? A place to live in. Two little men in a flying saucer. Problemi tecnici. No, no. Crossed a crowded thoroughfare. Saw the hats the women wear. And quickly flew away. And quickly flew away. One look and then they flew away. Era la Fitzgerald. I problemi tecnici. Sei pronto, maestro? As always. Allora, il terzo e ultimo punto di questa puntata è una suggestione che ci è arrivata dal maestro Ricky Gianco. Mi ha detto nei giorni scorsi: te informati, mi ha detto, te informati. E io mi sono informato, ma è difficile trovare qualcosa su questo. Veramente le fonti non ci sono, non ne ho trovate. E laddove non arrivano le fonti può solo arrivare la memoria. Sì, o l'intuizione, giusto? No, la memoria, no scusa, mi sto guardando male il maestro, vabbè, la memoria. E qualcosa ho trovato tuttavia, una mia personale fonte mi ha detto qualcosa, dopo te lo dirò. E non c'è niente tranne che un argomento sul quale ti suggestiono, ti invito insomma a dirci qualche cosa. Maestro, l'altro maestro, ricordo Ricky Gianco, già certo, ospite, mi ha parlato della mafia kazariana. Mi ha detto: te studia, informati, studia la mafia kazariana. Maestro, c'è veramente poco sulla mafia kazariana. Tu sai già dirmi qualcosa o vuoi prima ascoltare quello che ho saputo dalla mia fonte? Voglio ascoltare quello che hai saputo prima. Molto bene, allora questo è il messaggio che io ho ricevuto dalla mia fonte riguardo alla mafia kazariana. Attenzione, dice la mia fonte: praticamente ciò che è successo in questi ultimi 2 anni sarebbe il culmine di un'operazione segreta contro una mafia satanica nata anticamente a sud della Russia e che si era infiltrata in tutti i governi e poteri del mondo. E ancora. Mentre la Russia e la NATO si fingevano nemiche, in realtà erano alleate contro il Quarto Reich. Ora, nella vittoria, hanno raggiunto un accordo segreto che farà ripristinare de facto il controllo russo su gran parte dell'Europa orientale. Questo affermano fonti dell'MI6. L'accordo riflette i risultati della Prima Guerra Mondiale, in quanto Norvegia e Finlandia, paesi che la Russia non ha mai conquistato, potranno aderire alla NATO, mentre altri paesi dell'Europa orientale dovranno cercare la protezione russa. Ecco maestro, questo è tutto quello che io sono riuscito a sapere sulla mia kazariana. È molto poco, te ne rendi conto? In realtà è tantissimo, è che sembra una cosa da squinternati, però invece c'è qualche barlume di verità che possiamo rintracciare in tutto ciò? Allora, che magari a me sfugge, ma allora, immagino esserci. Sto cercando di ipotizzare questo. Allora, il Quarto Reich. Sì, anche quello mi ha colpito molto, ma mi ha colpito davvero tanto. Non... In che senso il Quarto Reich? Sì, dov'è esatto, il Quarto precisamente. Reich? Ubicato. No, direi. È che secondo me indica tipo i poteri forti di ora. Ok. Tipo il mondo plutagio. Va bene, i poteri forti mi sta bene. D'accordo, quindi sono i poteri forti contro NATO e Russia insieme? Sì, controllo. Che stanno difendendo... Quindi, sì, esatto. Cosa? Adesso si stanno fingendo nemiche mentre in realtà sono alleate contro il Quarto Reich. Contro il Quarto Reich. Ora, nella vittoria, non è chiaro quale. Ah, nella vittoria fino a quella contro il nazismo. Certo. Forse volevano dire il Terzo Reich, sai. Terzo, va bene. Forse era Terzo Reich. Ma va bene, va bene. Comunque, facciamo che quarto. Hanno raggiunto un accordo segreto che farà ripristinare de facto il controllo su gran parte dell'Europa orientale. Farà ripristinare... Alla Russia. Non è chiaro anche questo. Non è chiaro. Vabbè, allora... E questo lo dicono i fonti dell'MI6. L'MI6, che sarebbe... Anche questo è strano. Non si sa. Comunque, il discorso secondo me che c'è alla base di questo... No, è il servizio di intelligence, quello... MI5 e MI6 sono quelli dell'America. Ok, servizi di intelligence. Della Gran Bretagna. Della Gran Bretagna, va bene. Cioè sarà tipo esteri interno. Va bene. Ora, io quello che mi sembra che, diciamo, viene fuori da questo quadro, da questo dipinto, cioè è che... Da questo affresco potremmo anche dire. Da questo affresco, se vogliamo. È che noi potremmo tranquillamente strabatterci nel cazzo, nel senso intendo sia come individui che come nazione, probabilmente, su questo... C'è comunque una mafia satanica nata anticamente, che si è infiltrata in tutti i poteri e i governi del mondo, comunque non sembra una cosa piccola. Ce n'è ovviamente più di una. Mafia satanica, intendo. E infiltrata in tutti i poteri e i governi del mondo, comunque è peso, Tutti. Tutti. I poteri, tutti i poteri e i governi del mondo. Tutti i governi. Anche nel movimento 5 Stelle, non lo so. In tutti i poteri. Ma non credo, nel senso. Quindi sulla mafia casariana che facciamo? Allora, il piano potrebbe essere questo: coinvolgiamo il maestro Ricky Gianco qua in diretta nelle prossime puntate. Io voglio sapere di più. Anch'io sono veramente curiosissimo a questo punto. Non riesco a formulare come dire, ipotesi, anche perché è un filone, come dire, che non ho mai esplorato più di tanto. E vorrei. Non ci stai proteggendo, vero, dicendoci questo, maestro? Non è che ci stai tutelando da un segreto troppo grande? Tu lo dici. Lo sospetto, perché ormai ho imparato a conoscerti conducendo con te questa puntata da ben 2 stagioni. È scaltro. Tuttavia, comunque, io farei così, se sei d'accordo. Invitiamo il maestro Ricky Gianco in una delle prossime puntate e approfondiamo la questione della mafia kazariana, che mi sembra davvero centrale. A me sembra, se non centrale, quantomeno propedeutica. Sì. Molto bene, caro maestro. E allora è il momento in questo secondo blocco di cambiare la base, perché stiamo per annunciare una nuova rubrica che inizierà in questa... Doveva iniziare oggi, però siccome noi siamo punk, maestro, madonna, nuova stagione, nuovo sottofondo, te lo introduco oggi, madonna com'è adeguato, beccatelo, senti che bello, senti maestro. Un gruppo indonesiano. Sembravano di Prato. Sì. Mi ricordano gli Offspring. Sì, certo, e poi iniziano a cantare in malesiano, senti. E questa è We Are Punk. We Are Punk, nei momenti punk, da questa stagione in poi introdurremo questo sottofondo. Perché l'ho trovato? Che cosa c'entra con tutte le nostre musiche, siglette, canzoncine a tema alienistico, ufologico? Te lo dico subito, maestro, che il gruppo che lo suona si chiama Alien Us. Us inteso come culo. Questa è la hit. L'hanno pubblicata 5 anni fa, ha fatto 1242 visualizzazioni. Ora vi invito, cari ascoltatori, cari ascoltatrici di Radio Wombat, a farle profondamente salire, perché veramente sono un grande gruppo. Sono gli Alien Us. Gli Alien Us, dall'Indonesia con furore. Bene maestro, di cosa parliamo oggi e nelle prossime puntate? Di cosa ci vuoi parlare? Allora, vorrei introdurre questa rubrica. Ma preferisci una sigla, una sottofondo più consono? No, io o ti tieni il punk? Mi tengo gli Alien Us, che si prestano totalmente all'argomento che voglio andare ad introdurre e a trattare nelle prossime puntate. Si tratta di un qualcosa che è molto affine al culo, in realtà, e probabilmente al culo di un alieno barra A. O è rovesciata che sia. Questo tipo di nascita, se vogliamo, o di morte, perché no, ha un nome ed è cosmogonia. Ora avrete sicuramente già parlato, avete già sentito parlare nella vostra vita di cosmogonie, magari di una soltanto tra queste. Ecco, noi all'interno di questa stagione andremo a enumerare tutte quelle mie preferite. Maestro, ma scusa un attimo, ma precisiamolo comunque. Che cosa sono le cosmogonie? Che significa parlare? Questo mi sembra un insulto nei confronti dei nostri ascoltatori. Vaffanculo, cercatelo, vaffanculo, se non lo sapete che cazzo. No, invece We are regi. Invece lo diciamo per i più pigri anche, soprattutto se vi stimo tantissimo. La cosmogonia non è nient'altro che la nascita di un Pantheon, la nascita di un universo, diciamo la nascita di quelle che sono le leggi fisiche che governano quell'universo, impersonificate e incarnate all'interno della figura antropomorfa o semi-antropomorfa di alcune divinità, goddess and god. Noi dunque parleremo in buona sostanza dell'origine delle cose del mondo, tutte, secondo le diverse culture che lo abitano, giusto? Sì, e ne daremo una decina, una dozzina. Pensavo dicessi un giudizio spietato. No. Dico, ne daremo una decina, una dozzina o qualcosa del genere, ma sì. Due tra queste, solo due tra queste, saranno reali. Oh! E lo sapremo in anticipo a un certo punto, mai? No, alla fine. Bellissimo. Lo saprete, ma nel frattempo potete votare. La vostra cosmogonia preferita, cosa facciamo votare? La vostra cosmogonia più realistica. La più non rea- preferita, no. Perché non siamo mica da Maria De Filippi. No, infatti, certo, che cazzo. No, quella che secondo voi è quella vera. È quella vera. Esatto. va bene. Quindi noi dalla prossima puntata inizieremo, no, dalla prossima, vediamo, dalla prossima da quella dopo, perché ne faremo una dozzina in questa stagione, hai detto, giusto? Sì, una decina, sì, vediamo. Di cosmogonie, molto bene, molto tanto bene. Tanto rimangono due quelle vere. Quelle sono, certo. Ma e come faremo? Metteremo una sigletta, nel senso un sottofondo speciale per ciascuna cosmogonia, o troveremo un sottofondo comune adeguato alla situazione? Di queste cose ne dobbiamo discutere nelle riunioni che facciamo. Di redazione. Di redazione. Non adesso, mica vorrei aperti. Ma parliamone, perché no? Allora, avevo in mente... Il Sirtaki. Beh, per Esiodo, perché no? Spoiler. Molto bene, maestro. Allora è il momento di ripassare tutta la situazione qua che abbiamo acchittato. Poi mettiamo l'ultima canzone, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Certo. Allora, sì. Parleremo della nascita degli dèi. E di conseguenza, se andiamo a parlare della nascita degli dèi, attenzione qui, seguitemi tutti. Parleremo anche della nostra morte. E questo non deve spaventarci, bensì rallegrarci. Perché stiamo discorrendo di quello che è l'essenza e l'esistenza stessa. La base di tutto questo, l'interscambio che genera la realtà. Il sacrificio. È stato un momento meraviglioso, maestro, non vedo l'ora di iniziare. L'appuntamento è dunque a fra due settimane, un mercoledì ogni due dalle 21 su Radio Wombat. Beh, postawombat@insiberia.net per scriverci nel frattempo fra una puntata e l'altra, per qualunque domanda, suggestione o volontà di discussione con il maestro, siamo qui. Annunciamo anche che nelle prossime due, insomma, torneremo ad avere ospiti, come avevamo fatto già dalla scorsa puntata, lo faremo anche dalla prossima, ci sarà infatti un ospite nuovo, sorpresa, che suonerà con noi, suonerà strumenti magici. Un artista proveniente da un altro mondo. Sì, letteralmente proprio. Quale lo possiamo dire o lo scopriremo nel momento in cui lo incontreremo? Non è importante in questo mondo. Some explanation for that. ho sbagliato tutto sul finale. Sì, sì, aperto, aperto. Non hai sbagliato niente. No, perché siamo punk, siamo under regime, certo. Allora, la canzone Space Cowboy, ciao, a fra due settimane. Viva Radio Wombat.